L'idea è quella di creare una scuola di formazione che possa dare luogo a un gruppo dirigente politico formato su queste tematiche. Sì, infatti noi come input proprio statutario della nostra associazione abbiamo sempre avuto quello della comunicazione e quindi dell'importanza che ha la formazione, perché per comunicare bene bisogna anche sapere quello che uno dice, insomma. Notiamo, abbiamo sempre notato che, insomma, la politica e molti politici su questo aspetto sono a volte carenti. Parlo in senso generale, non è che da questo punto di vista intendo parlare di un singolo partito o un singolo movimento. Per cui per noi è fondamentale la formazione e per questo appoggiamo questa iniziativa che ha quella visione, quindi va verso quella direzione. Insegnare a persone comuni, non comuni, chiunque voglia, fargli capire tante cose e dargli degli strumenti, se poi un giorno vorranno effettivamente metterli in pratica e diventare dei politici di riferimento.